Non dire no, che ti conosco e lo so cosa pensi. Non dirmi no, è già da un po' che non ti sento parlare d'amore, usare il tempo al futuro per noi. E non serve ripetere ancora che tu mi vuoi. Perché ora non c'è quel tuo sorriso al mattino per me? Perché non mi dai più niente di te? Quando tutto finisce, se ami sai come un brivido triste, come in un film dalle scene già viste, che se ne va. Oh no, sai sempre quando una storia si è chiusa e non si può più inventare una scusa. Se ami prendi le mie mani, perché prima di domani finirà. Finirà. E non si può, no, chiudere gli occhi, far finta di niente. Come fai tu quando resti con me e non trovi il coraggio di dirmi che cosa c'è? Sarà dentro di me come una notte d'inverno, perché sarà da oggi in poi senza di te. Tutto finisce, se ami sai.